Parigi, la notte dal 29 al 30 giugno 1815. La sua spada è sul mio comodino, il suo destino si è compiuto e io l'ho suggellato. Tutti parlano della mia grande missione, ma io ho tanto male al cuore, tanto. Eppure non ho che una macchia blu sul mio ginocchio. Forse questa notte trascorrerà più veloce se mi metto a scrivere. Oggi, nelle prime ore del mattino, la nazione ha improvvisamente chiesto di parlare con me. Sembra pazzesco, ma è stato proprio così. Ero coricata e sveglia già da 2 ore. Siamo senza difesa in balia della calura estiva. Prestissimo comparve Yvette. Il conte Rosen voleva parlarmi senza indugio. Prima ancora che ella terminasse di parlare, lo svedese si precipitò presso il mio letto. Vi comunico ossequiosamente che i rappresentanti della nazione desiderano conferire al più presto con Vostra Altezza. Intanto si abbottonava eccitato la giubba della sua uniforme di gala. Che nazione? La nazione francese! Il conte Rosen aveva terminato di abbottonarsi l'uniforme e stava sull'attenti. Ah, caffè, Yvette, dissi io, caffè forte! Fissai il conte sconcertata. Prima che io beva il caffè, dovete parlarmi adagio, adagio, e spiegarmi tutto con molta chiarezza, altrimenti non ci capirò nulla. Dite che la nazione francese desidera e che cosa desidera veramente? La nazione, o meglio, i rappresentanti della nazione chiedono udienza. Si tratta di una cosa di enorme importanza, così ha detto quel signore che hanno mandato qui. Perciò ho indossato l'uniforme di parata. La vedo. Yvette mi portò il caffè, io mi scottai la lingua. Quel signore aspetta una risposta, disse il conte Rosen. Tra mezz'ora li potrò ricevere, i rappresentanti, non tutta la nazione, conte Rosen. Dicevo delle sciocchezze per far tacere la mia angoscia. Ah, che cosa si vorrà da me stavolta? Sudavo, ma le mie mani erano gelate. Mi cacciai in un sottile abito di mussolina bianca, misi dei sandali bianchi. Yvette mi voleva pettinare a modo, ma io non riuscivo a star seduta. Mentre ancora mi stavo incipriando il naso, mi annunciò che i signori erano giunti. I signori? Che signori? A causa del gran caldo, tutte le imposte del salotto grande erano chiuse. Nella luce dell'alba tutti i contorni sfumavano. Sul divano, sotto il grande ritratto del primo console, sedevano 3 signori. Al mio entrare si alzarono in piedi. Erano i rappresentanti della nazione. La nazione si faceva rappresentare dalle eccellenze Fouché e Talleyrand. L'uomo che sedeva tra loro non mi era noto, era piccolo e magrissimo. Portava un'antiquata parrucca bianca e un'uniforme straniera sbiadita. Quando gli fui vicina, vidi che le sue guance e la sua fronte erano coperte di rughe, ma gli occhi splendevano stranamente limpidi in quel vecchio volto. Altezza, ci permettete di presentarvi il generale Lafayette? Disse Talleyrand. Il mio cuore cessò di battere. La nazione era veramente venuta da me. Mi inchinai profondamente e maldestra come una scolaretta. La incolore voce di Fouché ruppe il silenzio. Altezza, in nome del governo francese. Siete proprio venuto da me, generale Lafayette, sussurrai. Lafayette incominciò a sorridere, schietto, cordiale. Ripresi coraggio. Mio padre non si separava mai dal primo testo stampato dei diritti dell'uomo. Il foglio rimase nella sua camera fino alla sua morte. Non immaginavo che avrei avuto l'onore di incontrare personalmente Lafayette, per di più nel mio salotto. Mi interruppi confusa. Altezza, in nome del governo francese che il ministro degli esteri Talleyrand e io rappresentiamo e in nome della nazione rappresentata dal deputato generale Lafayette ci rivolgiamo a voi in questa ora grave, ricominciò Fouché. Solo adesso feci scorrere lo sguardo dall'uno all'altro dei miei visitatori. Fouché, uno dei 5 direttori che attualmente reggono la Francia, Talleyrand, che solo ieri è tornato dal congresso di Vienna dove ha rappresentato finora la Francia dei Borboni. L'uno e l'altro, ex ministri di Napoleone. L'uno e l'altro, carichi di decorazioni. L'uno e l'altro in marsina ricamata d'oro. E tra loro Lafayette, in una leggera uniforme senza nastri né stelle. Posso fare qualche cosa per voi, signori? Domandai meravigliata. Altezza, disse Talleyrand. Parlava a bassa voce e molto in fretta. Voi ricorderete forse, Altezza, come io vi abbia accennato un giorno alla possibilità che la nazione dovesse eventualmente rivolgervi una grande preghiera. Ve ne rammentate, Altezza? Io feci cenno di sì. Beh, ora quel giorno è venuto. La nazione francese rivolge la sua preghiera alla principessa ereditaria di Svezia. Le mie mani divennero madide per l'agitazione. Desidero tracciare brevemente a vostra altezza un quadro della situazione, disse Fouché. Le truppe alleate sono alle porte di Parigi. Il principe di Benevento, come ministro degli esteri, si è messo in relazione con i comandanti Wellington e Blücher per evitare l'assalto a Parigi e scongiurare il pericolo di distruzioni e saccheggi. Naturalmente noi abbiamo offerto la resa incondizionata. I comandanti in capo delle truppe alleate ci hanno fatto sapere d'essere disposti a intavolare trattative a questo riguardo ad una sola condizione, disse calmo Talleyrand, e questa condizione è che il generale Bonaparte lasci immediatamente la Francia. La voce di Fouché suonò alterata. Seguì una breve pausa. Che cosa si vuole da me? Guardai Talleyrand, ma Fouché continuò: Sebbene noi abbiamo reso esplicitamente noto al generale Bonaparte questo desiderio della nazione francese, la partenza non è ancora avvenuta, al contrario. La voce di Fouché tremolò per l'ira. Il generale ha fatto a noi una così assurda proposta che siamo costretti a credere di avere ormai alla Malmaison un demente. Ieri il generale Bonaparte ha inviato a Parigi il suo aiutante Conte Flahaul, offrendo di mettersi alla testa dei resti dell'esercito per respingere il nemico dalle porte di Parigi. In una parola, un bagno di sangue davanti a Parigi. Talleyrand mi guardò fisso. Non possiamo capitolare e salvare Parigi dalla distruzione prima che il generale Bonaparte abbia abbandonato la Francia. Gli alleati sono già presso Versailles. Non abbiamo più tempo da perdere, Altezza. Il generale Bonaparte deve lasciare oggi stesso la Malmaison e recarsi a Rochefort. Gli alleati purtroppo esigeranno la consegna del generale Bonaparte. Talleyrand sbadigliò di nascosto, ma il generale Bonaparte, all'atto della sua abdicazione, ha insistito perché gli siano messe a disposizione due fregate della Marina francese con le quali potrà recarsi all'estero. Le fregate da più giorni lo aspettano invano nel porto di Rochefort. Gli occhi di Fouché si restrinsero. D'altra parte, la Marina inglese ha bloccato tutti i porti. Ho saputo che l'incrociatore inglese Bellerophon si trova ancora all'ancora a Rochefort, accanto alle due fregate. Guardò l'orologio. Ci siamo, pensai. Trangugiai e domandai sottovoce: Ed io in che cosa potrei. Voi, cara principessa, che fate parte della casa regnante di Svezia, siete qualificata per parlare col generale Bonaparte in nome degli alleati? Sorrise compiaciuto Talleyrand. Vostra Altezza potrebbe, nella stessa occasione, rimettere al generale Bonaparte la risposta del governo francese alla sua assurda richiesta. Fouché trasse rapidamente un plico suggellato dalla tasca interna della sua marsina. Temo che il governo francese dovrà servirsi di uno dei suoi corrieri per mandare questo documento alla Malmaison, dissi io. E l'intimazione di recarsi all'estero, oppure di consegnarsi agli alleati per dare finalmente pace alla Francia? Fouché, per la rabbia, aveva preso improvvisamente a gridare. Scossi il capo lentamente. Siete in errore, signori. Io sono qui soltanto come persona privata. Figlia mia, non vi è stata detta tutta la verità. Sussultai. Per la prima volta udivo la voce di Lafayette, una voce profonda, pacata e dolce. Questo generale Bonaparte ha raccolto alla Malmaison alcuni battaglioni, ragazzi pronti a tutto. Noi temiamo che il generale si lasci trascinare ad una risoluzione che non muterebbe il risultato delle cose, ma costerebbe qualche centinaio di vite umane in più. 200 o 300 vite umane sono molte, figlia mia. Io chinai il capo. Le guerre del generale Bonaparte sono già costate all'Europa 10 milioni di vite umane, continuò con voce calma e inesorabile. Mi drizzai e guardai dietro le spalle dei tre uomini il ritratto del giovane Napoleone, come se giungesse da lontano. Udii la mia stessa voce. Tenterò, signori. Tutto allora procedette con grande celerità. Fouché mi pose in mano il plico suggellato. Il generale Becker accompagnerà Vostra Altezza. Ed io, no, verrà con me soltanto il mio aiutante svedese. C'è un battaglione della guardia a disposizione, disse Talleyrand insinuante. Non mi sento in pericolo. Conte Rosen, la mia carrozza. Partiamo subito per la Malmaison. Il mio cuore vacillava. Yvette mi porse i guanti E che cappello, Altezza? Cappello? Che cappello? Talleyrand vuole dirmi ancora qualche cosa. Sono convinto che vi sarà riconoscenti, che vi si sarà riconoscenti e si accorderà forse a Madame Giulia Bonaparte un trattamento speciale. Oh, perché mi offendi? Gli volsi la schiena. Il generale Lafayette stava presso la porta che mena in giardino e spiava tra le stecche delle persiane chiuse. Gli fui tosto vicina. Figlia mia, se lo consentite, mi siederò nel vostro giardino e attenderò il vostro ritorno. Per tutta la giornata? Per tutta la giornata. E penserò sempre a voi. Altezza, la carrozza è pronta. Il conte Rosen portava la sciarpa giallo-azzurra d'aiutante sull'uniforme di gala. Guardai ancora Lafayette, che andava in giardino. Il viaggio alla Malmaison fu più breve del solito. Feci rialzare il tetto della carrozza perché mi sentivo soffocare, ma non mi giovò. Dietro di noi galoppava un cavaliere solitario, il generale Becker, il commissario cui spettava di vigilare l'ex imperatore dei francesi per incarico del governo francese. Il conte Rosen ogni tanto mi sogguardava, non ci scambiamo durante il tragitto una sola parola. In prossimità della Malmaison una barricata sbarrava la strada. Delle guardie nazionali stavano di sentinella. Quando videro il generale Becker, tirarono subito da parte lo sbarramento. Anche l'entrata al parco era guardata da sentinelle armate di tutto punto. Becker scese da cavallo, la mia carrozza poté entrare. Il cuore riprese a battermi forte. Nella mia pena cercavo di immaginarmi che tutto fosse come una volta, una gita alla Malmaison, dove io conosco ogni panchina e ogni rosaio. Rivedrò il laghetto e la carrozza si fermò. Il conte Rosen mi aiutò a scendere. Sulla scalinata comparve Meneval, dietro di lui il duca di Vicenza. Dopo pochi istanti mi vidi intorno tutti i visi a me familiari. Mi venne incontro Ortensia e dietro di lei Giulia. Una gradita sorpresa, esclamò Giuseppe. Accanto a Giulia comparve Luciano. I suoi occhi miopi scrutarono il mio volto. Io sorridevo disperatamente. Dalla finestra del salotto bianco e giallo mi fece cenno Madame Letizia come tutti si rallegravano della mia visita. Giuseppe, dissi e trangugiai, vorrei, prego, devo parlare subito con vostro fratello. Molto gentile da parte vostra, Desirée, ma dovrete avere pazienza. L'imperatore attende una importante comunicazione dal governo di Parigi e fino ad allora desidera restare solo. La mia bocca si era di nuovo inaridita. Giuseppe, io porto a vostro fratello questa comunicazione. Ebbene? Dissero tutti insieme, Giuseppe, Luciano, Ortensia e Giulia, Meneval e Vicenza, e anche il generale Bertrand e Gerolamo Bonaparte che si erano avvicinati. Ebbene? Vorrei dare questa notizia prima di tutti al generale Bonaparte. Il viso di Giuseppe si fece ancora più pallido quando io dissi generale Bonaparte. Sua maestà si trova sulla panchina del labirinto. Voi conoscete il labirinto e la panchina, Desirée? Conosco molto bene il parco, mormorai. E mi misi in cammino. Dietro a me risuonavano degli speroni. Restate indietro, conte Rosen, per questo sentiero devo andare io sola. Conosco i meandri del giardino che Giuseppina ha creato con tanto buon gusto. So come ci si deve dirigere per non smarrirsi tra le siepi e uscire invece improvvisamente di sorpresa contro il piccolo sedile sul quale possono trovar posto soltanto due persone che vogliono stare molto vicine. Su quel piccolo sedile stava Napoleone. Portava l'uniforme verde dei cacciatori della guardia. I suoi capelli, divenuti radi e sottili, erano accuratamente ravviati. Con una mano si sorreggeva il volto dalle guance carnose e pallide e dal mento imperioso. Fissava senza vederla la siepe fiorita che aveva dinanzi. Quando lo vidi, mi sentii improvvisamente calmissima. Con l'angoscia cessò la dolcezza di tutti i ricordi. Riflettei persino con quali parole dovessi rivolgermi a lui per farmi notare. Poi mi venne in mente che ciò non aveva importanza, già che eravamo soli noi due nel labirinto delle siepi odorose, ma prima ancora che io lo chiamassi, egli volse un poco la testa. Il suo sguardo sfiorò il mio abito bianco. Giuseppina, mormorò. Giuseppina, mi chiami già per il desinare? E solo perché non ebbe risposta, divenne attento. Il suo sguardo tornò alla realtà, considerò la mia veste bianca, rimase sorpreso e contento. Eugenia, sei venuta ancora? No, Nessuno lo udì chiamarmi Eugenia, nessuno vide come egli si scostasse un poco su quella panchina per due che vogliono stare molto vicini. Quando fui seduta proprio accosto a lui, mi osservò, sorridendo. Sono molti anni che noi due abbiamo contemplato una siepe fiorita stando vicini così. E poiché io non parlavo ancora, te ne ricordi ancora, Eugenia? E mentre diceva così si scostava dalla fronte una ciocca di capelli che da molto tempo più non esisteva. Si ha tempo di ricordare mentre si aspetta. Io sto aspettando ora un messaggio del governo, una comunicazione di straordinaria importanza. Le sue sopracciglia si inarcarono. Due rughe verticali gli comparvero sopra la radice del naso, il mento si sporse in avanti. E io non sono avvezzo ad aspettare. Non dovete aspettare più, generale Bonaparte. Io reco la risposta del governo. Dalla mia Pompadour trassi subito il plico suggellato. Lo udii rompere in fretta il sigillo, non lo guardai mentre leggeva. Come mai proprio voi mi portate questo documento, madame? Forse che il governo non si crede neppure più in obbligo di mandarmi la sua risposta per un ministro o per un ufficiale? Una visitatrice casuale, una signora che mi fa una visita di cortesia, viene scelta come ambasciatrice per questo? Non sono una visitatrice casuale, generale Bonaparte, e neppure una signora che vi fa una visita amichevole, dissi io, e respirai profondamente. Sono la principessa ereditaria di Svezia, generale Bonaparte. E che cosa intendete dire con questo, madame? Domandò tra i denti. Il governo francese mi ha pregata di comunicarvi che gli alleati intendono iniziare le trattative per la resa di Parigi solo dopo che voi avrete lasciato la Francia. Per salvare Parigi dalla distruzione è necessario che voi partiate questa sera. Io propongo al governo di ricacciare il nemico alle porte di Parigi e si respinge la mia offerta, ruggì. Le prime truppe alleate hanno raggiunto Versailles, dissi con calma. Volete farvi prendere prigioniero qui alla Malmaison? Non datevi pensiero per questo, madame, io saprò ben difendermi. E questo è il punto, generale. Si vuole evitare un inutile spargimento di sangue. I suoi occhi si erano ristretti, due fessure soltanto tra le quali si muovevano scintille. Questo si vuole? Anche se è necessario per l'onore di una nazione? Potrei parlare dei milioni che sono caduti per l'onore di questa nazione, pensai, ma lui sa le cifre meglio di me. Serrai i denti, non devo cedere. Ma lui si era levato in piedi. Probabilmente voleva passeggiare avanti e indietro, ma nel cuore del labirinto non vi era posto per questo. Come in una gabbia, pensai, e fui atterrita da questo pensiero. Madame, mi era così vicino che dovetti tirare indietro il capo per vedere la sua faccia. Voi dite che il governo francese desidera che io parta? E gli alleati? Il suo volto era alterato, bollicine di saliva gli si annidavano negli angoli della bocca. Gli alleati insistono per il vostro arresto, generale. Ancora un attimo mi guardò senza muoversi, poi mi volse la schiena e si appoggiò alla siepe. In questo straccio di carta del cosiddetto governo francese che voi mi avete or ora portato, madame, si fa di nuovo cenno alle fregate di Rochefort. Io andrò dove più mi farà comodo, madame, perché il governo francese non mi consegna? Credo che ciò sia penoso per quei signori. Si voltò e mi guardò di nuovo. Così non avrei che da salire a bordo di una delle navi, comunicare la mia meta e il porto di Rochefort, come ogni altro porto, è sorvegliato da trasporti della marina inglese. Non andreste molto lontano, generale. Non ruggì, non si infuriò, si sedette quieto accanto a me. Avevamo così poco posto che ero costretta a respirare con lo stesso ritmo di lui. Dapprima il suo respiro fu greve. Quando io dinanzi vi ho scorta e ho riconosciuto il vostro volto, madame, mi parve che per un momento tornasse la mia giovinezza. Ho sbagliato, Altezza Reale. Perché? Io ricordo ancora molto bene quelle sere quando noi facevamo le gare di corsa. Allora eravate già generale, un giovanissimo generale. Parlavo come in sogno, le parole mi fluivano spontanee, vi era intorno calore e quiete e la siepe odorava. Qualche volta mi avete persino lasciato vincere, ma forse questo lo avete dimenticato da un pezzo. No, Eugenia. E una volta Era di sera tardi e il prato attiguo al nostro giardino era tutto buio. Mi avete detto che conoscevate il vostro destino. La vostra faccia era così bianca al chiaro di luna. Allora per la prima volta ho avuto paura di voi. E allora ti ho baciata per la prima volta, Eugenia. Sorrisi. Pensavate alla dote, generale. No, non solo a quella, Eugenia, davvero, non soltanto alla dote. Poi stemmo ancora vicini, tacendo. Sentii che mi osservava in silenzio e che gli tornavano dei ricordi di me. Giunsi le mani. 200 o 300 vite umane sono molte, figlia mia. Se sapessi pregare adesso pregherei. E se io non mi lasciassi far prigioniero, ma mi consegnassi volontariamente in prigionia, che sarebbe di me? Non so, risposi rattristata. Un'isola. Di nuovo un'isola, forse quello scoglio nel mare che si chiama Sant'Elena e che fu già proposto al Consiglio di Vienna. L'angoscia urlava dai suoi occhi, la sua faccia era squallida. È forse Sant'Elena? Non lo so proprio. Dove si trova Sant'Elena? Di là, dal Capo di Buona Speranza, di là, Eugenia. Tuttavia, non vorrei che vi lasciaste arrestare. Questo mai, generale, mai. Meglio allora darsi volontariamente prigioniero. Ma lui stava di nuovo reclinato in avanti e si coprì con la mano gli occhi, nei quali si leggeva chiaramente il terrore. Mi levai in piedi. Egli non si mosse. Ora me ne vado, dissi a bassa voce, e rimasi ferma in attesa. Egli alzò la testa. Dove vai? Torno a Parigi. Voi non avete dato una risposta, né alla principessa ereditaria di Svezia, né al governo francese. Del resto avete tempo fino a questa sera. Allora egli incominciò a ridere forte. Ciò mi riuscì tanto strano che indietreggiai. Impedire che mi arrestino qui a Rochefort? Impedirlo? E intanto si dava da fare con la spada. Senti, vogliamo guastare la festa ai signori Blücher e Wellington? Trasse la spada dal fodero. Ecco, prendila tu, Eugenia. Prendi la spada di Waterloo. L'acciaio sfavillò al sole. Protesi le mani, esitante. Bada, non prendere la spada per la lama. Maldestra, afferrai l'elsa. Poi fissai smarrita quella spada in mano mia. Napoleone si era alzato. In questo momento mi arrendo agli alleati. Mi considero prigioniero di guerra. È costume consegnare la spada all'ufficiale che ci fa prigionieri. Bernadotte te lo spiegherà. Io invece ho consegnato la mia spada alla principessa ereditaria di Svezia perché... Le sue parole si incalzarono. Perché siamo arrivati alla siepe, Eugenia, e tu hai vinto. Questa faccenda della siepe non la potrò tanto facilmente spiegare al governo francese, dissi io. Sono in casa mia e aspettano la vostra risposta, generale Bonaparte. Ah, aspettano, disse sarcastico. In casa tua aspettano Talleyrand e Fouché per riconsegnare la Francia ai Borboni? No, aspetta Lafayette. Fece una smorfia. Eugenia, non tenere la sciabola come un ombrello. E la vostra risposta al governo, generale? Fa vedere la mia spada e di loro che mi sono dato prigioniero di guerra agli alleati. Parto tra una... No, diciamo tra 2 ore per Rochefort. Di là invierò una lettera al mio più vecchio e miglior nemico, al principe reggente d'Inghilterra. La mia sorte futura dipenderà dagli alleati. Tacque per un poco e poi in fretta soggiunse: Comunque le fregate dovranno aspettare a Rochefort. Sono all'ancora di fianco all'incrociatore inglese Bellerophon, dissi io, atona. Poi attesi una parola di congedo. La parola non venne e io feci per andarmene. Madame, mi voltai prontamente. Madame, dicono che a Sant'Elena il clima sia assai malsano. Posso sperare che eventualmente si intercederà presso gli inglesi per mutare la mia dimora? Avete detto voi che Sant'Elena si trova di là dal Capo di Buona Speranza? Guardò fisso davanti a sé. Dopo la mia prima abdicazione ho tentato di togliermi la vita a Fontainebleau, ma fui salvato. Non ho ancora compiuta la mia missione. Voi non vi siete mai trovata sospesa tra la vita e la morte, madame? Sì. Quella sera che voi vi siete fidanzato con la viscontessa di Beauharnais, stavo per buttarmi nella Senna. Il suo sguardo tornò verso di me. Stavate per buttarvi? E come foste salvate, Eugenia? Bernadotte mi ha trattenuta. Crollò il capo, sorpreso. Strano. Bernadotte ti ha trattenuta. Tu sarai regina di Svezia, io ti consegno la spada di Waterloo. Credi alla predestinazione? No, solo a strane coincidenze. Gli tesi la mano. Sai uscire da sola dal labirinto, Eugenia? Feci cenno di sì. Dì ai miei fratelli che si prepari quanto occorre per la mia partenza. Soprattutto un abito borghese. Io vorrei star qui un momento ancora, solo. E il fidanzamento allora non fu soltanto per la dote. E adesso va, Eugenia, va, prima che mi penta. Me ne andai in gran fretta. I meandri del labirinto divennero inaspettatamente interminabili. Il sole scottava, non si muoveva un ramoscello, non una foglia, non cantava un uccello. Io porto la spada, pensavo. Tutto è finito, io porto la spada. L'abito bianco mi si appiccicava alla persona. Avevo dei bagliori davanti agli occhi. Rose, di tutti i colori e tante bianche. Lei amava tanto il bianco. Mi misi a correre. Si aprì una finestra, la voce di Giulia. Ma è durato molto! Sì, tutta una vita. Corsi allora. Mi attendevano sulla scalinata i fratelli, la sciarpa sfavillante di Rosen, l'uniforme scura del commissario. Strano che nessuno di loro si muova. Stanno lì, figure di cera, e mi guardano stupiti. Ma non guardavano me. Guardavano la spada che tenevo sollevata, inquieta. Mi fermai e presi fiato. Il conte Rosen stese la mano per prendermi la spada. Io scossi il capo. Gli altri non si mossero. Generale Becker. Comandi, Altezza. Il generale Bonaparte ha deciso di consegnarsi agli alleati. Il generale ha affidato a me, come principessa ereditaria di Svezia, la sua spada. Tra 2 ore il generale Bonaparte partirà per Rochefort. Rumore di passi sulla scala. Tra gli uomini della famiglia Bonaparte comparvero ora le donne. Napoleone! Sussurrò Madame Letizia e incominciò a piangere sommessa. Già, tra 2 ore! Le dita di Giuseppe serrarono il braccio di Giulia. Accompagnerò mio fratello a Rochefort, generale Becker, disse tranquillo. Lui lo odia, pensai ancora, altrimenti non lo accompagnerebbe. Il generale Bertrand gli bisbigliò qualche cosa. 2 reggimenti sono pronti al comando di Sua Maestà. Il generale Bonaparte vuole risparmiare questo alla Francia. La guerra civile, gridai, non impediteglielo. A un tratto incominciai a tremare in tutta la persona. Nuovi bagliori mi danzavano davanti agli occhi. Proprio accanto a me singhiozzava Giulia. Ma Napoleone ha già mangiato? Domandò lamentosa Madame Letizia. Andrà molto lontano. Poi non udii più nulla, tanto mi rombavano gli orecchi. Sommergersi in questo rombo, pensai, e dissi: il generale desidera un abito borghese e vorrebbe restare per qualche tempo solo. Non so come risalii in carrozza. Le ruote si mossero. Quando riaprii gli occhi vidi soltanto la strada e i prati, gli alberi, gli arbusti non erano mutati. Strano, pensai meravigliata. Si era levato un po' di vento. Aveva un gusto dolce come le rose della Malmaison. Il conte Rosen liberò la spada dalle mie dita aggranchite e la depose nell'angolo della vettura accanto a me. In quel momento successe il fatto. Non so come abbia potuto ritrarre in tempo la testa, ma la ritrassi e mi udii gridare. Il sasso mi colpì al ginocchio, era una pietra ben aguzza. Rosen gridò qualche cosa in svedese e Johansson frustò i cavalli. La seconda pietra colpì soltanto la ruota posteriore. La faccia di Rosen era cadaverica. Altezza, ve lo giuro, si scoprirà l'attentatore. E perché? Non ha importanza. Non ha importanza che si prenda a sassate la principessa di Svezia? Ma il sasso non era diretto contro la principessa ereditaria di Svezia, bensì contro la marescialla Bernadotte. Questa non esiste più. Incominciava a imbrunire, il dolce vento si rinfrescò, potei di nuovo respirare. Quando arrivammo nel suburbio, l'oscurità discese sopra di noi. Davanti a tutti i portoni si serravano crocchi bisbiglianti. Ormai Napoleone ha indossato il suo abito borghese, pensai. Già è in viaggio per la costa. Sua madre gli ha dato dei panini imbottiti. Parte per un lungo viaggio. Parigi è salva. In prossimità della Rue d'Anjou ci imbattemmo in una folla di gente che avanzava senza posa. Dovemmo fermarci. Dalla Rue d'Anjou usciva un sordo mormorio. A un tratto qualcuno gridò: «La Princesse Royale de Suède!» Il grido si propagò, il mormorio della Rue d'Anjou divenne tumulto. Comparvero i gendarmi, respinsero la folla e i cavalli ripresero ad avanzare. Davanti alla mia casa fiammeggiavano delle torce. La porta era spalancata, la carrozza poté entrarvi, poi il portone fu rapidamente chiuso dietro di noi. La bufera nella strada non risuonava più che come un lontano rombo marino. Mentre scendevo, un acuto dolore mi trafisse il ginocchio. Serrai i denti e presi la spada dall'angolo della vettura, poi, zoppicando, entrai subito in casa. L'atrio era rischiarato da molte luci. Le porte erano aperte. Spaurita, battei le palpebre davanti a quello splendore improvviso. Quanta gente estranea! Vi ringrazio, in nome della Francia, cittadina. Lafayette mi si era avvicinato. I suoi occhi sorridevano tra le 100 rughe. La sua mano paterna si portò sotto il mio braccio per guidarmi. Per l'amor di Dio, chi sono tutti questi sconosciuti? Mormorai sconcertata. I rappresentanti della nazione, figlia mia, sorrise Lafayette. E la Grande Nation ha molti rappresentanti, Altezza. Talleyrand era già al mio fianco. Dietro di lui stava Fouché con due coccarde bianche sui rivolti della giubba. I molti rappresentanti della nazione si inchinarono, si fece un silenzio assoluto. Solo il tumulto della strada penetrava soffocato attraverso le finestre chiuse. «E tutta questa gente nella strada, che cosa aspetta?» mi informai. «È corsa voce che Vostra Altezza ha cercato di interporsi», disse in fretta Fouché. «Il popolo di Parigi aspetta da più ore il ritorno di Vostra Altezza». «E allora, dite a questa gente che lì, che il generale Bonaparte si è arreso agli alleati ed è partito, così torneranno alle loro case». «Il popolo vuole vedervi, cittadina», disse Lafayette. «Me? Vedere me?» Lafayette accennò di sì. «Voi portate la pace, la capitolazione senza guerra civile. Avete compiuto la vostra missione, cittadina?» Io scossi il capo inorridita. «No, no, questo poi no!» Ma Lafayette non lasciava il mio braccio. «Mostratevi al vostro popolo, cittadina. Avete salvato molte vite umane. Posso accompagnarvi a una finestra?» Inerte mi lasciai condurre da lui nella sala da pranzo. Venne aperta una finestra verso la Rue d'Anjou. Un grido salì dall'oscurità. Allora Lafayette si affacciò alla finestra. Aprì le braccia. Il grido si spense, la voce del vecchio squillò come una fanfara. Cittadini e cittadine, la pace è assicurata. Il generale Bonaparte si è dato prigioniero di guerra ad una delle nostre donne. Un panchettino, bisbigliai. Un che cosa? Domandò Rosen. Un panchettino per i piedi? Sono troppo piccola per una principessa ereditaria, sussurrai, e pensavo: Giuseppina, Giuseppina. E a una delle nostre donne, a una cittadina che un popolo nordico amante della libertà ha eletto sua principessa ereditaria, ha consegnato la spada di Waterloo. Allora salì il grido dal buio. Lafayette si fece rapidamente da parte. Un panchettino venne spinto contro la finestra. Con tutte e due le mani mi tenevo davanti la spada. Ardevano le torce, l'oscurità ribolliva sotto di me. Poi distinsi le grida. Ripetevano sempre le stesse parole: Notre Dame de la Paix! Notre Dame de la Paix! Nostra Signora della Pace! Dapprima con entusiasmo frenetico, poi ritmicamente sempre: Notre Dame de la Paix! Notre Dame de la Paix! Mi chiamavano la portatrice della pace. Io piangevo. Lafayette si ritrasse e spinse il giovane conte Rosen. Poi il vecchio diede di piglio a un doppiere e ne fece cadere la luce sull'uniforme svedese e sulla sciarpa giallo-azzurra. La Svezia! Viva la Svezia! Gridarono mille voci. Sull'asta, sopra il portone, venne issata la bandiera svedese. Il vento notturno l'agitava e la faceva apparire enorme. Notre Dame de la Paix, Notre Dame de la Paix, tripudiava la gente. Intanto io ero già scesa dal mio panchettino e la finestra fu chiusa. Mi ritrovai allora, estranea e smarrita, nel mio stesso salotto. I signori deputati della Grande Nation formavano crocchi animatissimi. Credo che bisticciassero. Qualcuno disse: Talleyrand ha già iniziato le trattative d'armistizio. E un altro: Fouché manderà un corriere segreto al grasso Luigi. Ma non si accingevano affatto a congedarsi. Io deposi la spada sul tavolo sotto il ritratto del primo console. Maria mise altre candele nei doppieri. Aveva indosso la sua veste elegante di seta blu. Il ginocchio mi martellava e non mi lasciava pensare ad altro. Zoppicai verso la porta, ma Talleyrand mi trattenne. Vostra Altezza si è fatta male ad una gamba? No, sono soltanto stanca, Eccellenza. Si portò l'occhialino davanti agli occhi. Il vostro amico repubblicano, Marchese della Fayette, sembra essere una vecchia simpatia di Vostra Altezza. Il suo tono mi rese rabbiosa, furibonda, anzi. È l'unico uomo dalle mani pulite qua dentro, sbottai. Notai allora che Fouché stava mettendo le mani sulla spada. No, no, signor ministro, gridai e zoppicai in fretta verso di lui. Ma il governo francese, si giustificò. Per la prima volta vidi un bagliore nei suoi piccoli occhi, un bagliore pieno di cupidigia. La spada è stata consegnata agli alleati e non al governo francese. La conserverò io finché i generali Blücher e Wellington non avranno deliberato al riguardo. Quel lungo coltello nell'anticamera della nostra villa di Marsiglia. Tenevo di nuovo la spada di Waterloo come un ombrello e mi ci appoggiavo. Forse degli impacchi freddi mi faranno bene al ginocchio malato, pensavo, e contemplavo il ritratto donde il primo console guardava ironico e lontano. I non ambiziosi cominciarono a bisticciare con i traditori della Repubblica. Li udii ancora dalla mia camera da letto. Il mio ginocchio era tutto blu e assai gonfio. Crollando il capo, Maria mi tolse l'abito impolverato e sudato e incominciai a scrivere nel mio diario. E adesso, finalmente, spunta il mattino. Papà, Lafayette è diventato un vecchio signore e la tua pagina di giornale con i diritti dell'uomo si trova probabilmente in Svezia. Dal ritorno di Napoleone dall'Elba sono passati soltanto 90, 95, no, 100 giorni, 100 giorni e 100 eternità. Ho davvero soltanto 33 anni. Giambattista è morto alla battaglia di Lipsia. E la giovane Désirée è morta nel labirinto della Malmaison. Come potranno questi due vivere ancora insieme? Credo che non scriverò mai più nel mio diario, papà.